Beh, di certo non si può parlare che di suono lancinante per quanto riguarda Memmonist. Nascevano come Memmonist Orchestra, poi si trasformarono insomma come Memmonist per un periodo un po' in biota. E hanno portato insomma agli estremi un certo modo di intendere insomma il collage sonoro. Sì, prima parlavamo di sinfonismo, ma poi in realtà siamo molto più vicini a un'idea di assemblamento di materiali multimateriali e molti che vanno a creare sì una sorta poi di collage appunto sinfonico, parasinfonico. In quel senso Memmonist sono stati grandi maestri, poi con un finale anche che ricordava appunto molto del grande jazz d'avanguardia, del free, e in questo senso appunto anche un accostamento, se vogliamo, alla Rare di Chris Clutter, e quindi anche tutto quello sperimentale, su un nuovo modo di approcciare anche musiche estreme come appunto il free e il post free degli anni 70, dentro appunto un calderone infuocato di industrial, di noise e di appunto esperimenti molto arditi. Ma se abbiamo trattato insomma, facendo un breve excursus appunto di un'ora, un poco più di un'ora, con suoni che partivano dalla fine degli anni 70 ed erano memory tanto di certo kraut quanto di certo minimalismo, che poi stava diventando massimale in molte delle loro sfumature, non soltanto quelle, visto che poi diventerà uno dei suoni più eclatanti delle avanguardie oppure delle sperimentazioni delle progettualità degli anni 80, ricordando insomma Glenn Branc, Chris Chatham e tutto quello che poi è venuto, è nato deforme, meravigliosamente deforme appunto dai grandi sperimentatori americani Branc e Chatham, che sicuramente insomma per molti versi hanno come dire incrociato, seppur un po' più anziani e seppur con un retroterra più legato proprio alla vera e propria avanguardia, se pensiamo insomma che uscivano da Niblock e da appunto sperimentatori come Gordon Mamma, insomma faccende legate alle avanguardie americane, però di fatto incrociarono anche appunto certe sonorità che si stavano facendo iperboliche, come appunto quelle di Control Bleeding, Rhythm and Noise, Memmonist, insomma c'erano una sorta di vasi comunicanti tra i vari esperimenti noise americani. Se appunto con questo excursus abbiamo trattato un po' di fine anni 70 e anni 80, facendo un salto a pie pari ai nostri giorni, andiamo a trovare Knife, formazione che un po' deve decidere se stare dalla parte delle sperimentazioni anche piuttosto interessanti che portano avanti con pezzi come quello che abbiamo in sottofondo, che adesso sentiremo in maniera insomma un po' più completa, sicuramente più udibile, e invece insomma derive così vagamente anche decontestualizzate vicino a certo techno pop, nuovo modo di intendere insomma la materia pop, però passata appunto attraverso un suono decisamente sintetico, qua però con un pezzo appunto che sta dentro il loro bel Shaky Habitual anche nei momenti di techno pop. Questo pezzo di 20 minuti c'è invece assolutamente un approccio industrial anche piuttosto scuro, prendendo quasi così a riferimento sia certi certi Memmonist e quindi quelli che abbiamo ascoltato prima, e certe anche proprio divagazioni e così paracinematografiche, sperimentali, appunto di certe fuoriuscite anche di autori legati alle avanguardie che appunto si cimentavano anche con il cinema e soprattutto con un suono decisamente cinematico. Per il momento appunto Knife, Shaky Habitual. Thank you. veramente notevole, Tien Lai, Dat, nuovo progetto. Tien Lai, non vi fate ingannare dal nome, e non è affatto, insomma, un progetto cinese o di Singapore o chissà da dove, e in realtà viene dall'est Europa. Non mi fate pronunciare, non oso neanche provarci i cognomi, perché è veramente difficile, soprattutto il secondo dei Tien Lai, perché già Jakub Zioslek si riesce anche a pronunciare, che diciamo è quello più prolifico di questo giovane progetto. Ha già tre CD insomma come produzione propria, e poi appunto insieme a un altro che appunto non ci provo a pronunciare perché è veramente troppo rischioso, rischio ovviamente di incartarmi per chissà quanti minuti, e ha formato questi Tien Lai, questo Dat, disco che veramente vive di una felicissima fusione tra drone e noise e in questo senso sinfonico che unisce il tutto veramente in maniera piuttosto interessante, ma non solo, anche proprio in maniera notevole, ecco, anche per un certo sviluppo insomma di la drone music, il suono drone che da più anni insomma è cresciuto veramente in maniera esponenziale, anche con faccende piuttosto grosse anche dentro addirittura a certi momenti di post dance, se pensiamo a certe astrazioni quasi droniche di un suono post dubstep che ogni tanto insomma è passato anche da queste parti e che si sta sviluppando in maniera anche piuttosto interessante. Qua veramente il concetto di drone, di noise unito in maniera appunto sinfonica con questi armeggiamenti che portano anche insomma una certa alterazione proprio nell'ascolto, nel fluire attraverso questi spazi anche ampissimi che hanno le musiche di questo Dat di Tien Lai, appunto nuovissimo progetto. Dat è uscito qualche mese fa, ma di fatto insomma sta girando da poco qua da queste parti, nel senso di Europa dell'Ovest, e se dobbiamo parlare insomma di non soltanto giovanissimi come progetto di Tien Lai, è un suono che è diventato magistrale, è partito da glitch post-techno come quello di Tim Hacker, con ambient che già stava diventando qualcos'altro già nei primi anni zero, e partiva appunto l'esperimento decisamente felice di musicale di Tim Hacker, che ci porta ai nostri giorni con un disco tra i più belli, tra i più ispirati, ma troverete insomma gli ultimi dischi di Tim Hacker nelle più avvedute insomma discografie annuali appunto delle varie riviste oppure dei vari siti internet, perché appunto è un disco veramente più bello dell'altro, questo Virgins 2003, e veramente affina ancora di più questa materia sonora, questo post ambient che va quasi appunto a lambire sonorità neosinfoniche, ma appunto come le stiamo trattando questa sera, ecco, in maniera appunto sintetica, e musiche sintetiche che non vivono di certo di classicismi, anzi sintetizzano la materia sonora. Ci andiamo appunto a ascoltare Tim Hacker quasi in conclusione appunto di questo 451 frammenti sonori dedicato non a caso insomma alle musiche sintetiche. è veramente di intensità notevolissima, T-Maker, appunto, dal suo Virgin. Anch'io, insomma, incantato da questa grande maestria nel trattare un suono tanto rumoroso quanto appunto anche lieve nel suo farsi così memore anche di appunto un suono cameristico, però che esplodendo si fa anche appunto sinfonico in termini anche di struttura, di abbondanza, no? di suono che appunto avvolge e sommerge anche alcune volte. E da T-Maker, per concludere così e chiudere un cerchio che non vogliamo assolutamente chiudere con questa trasmissione, ma di appunto 451 dedicato alle musiche sintetiche, ma che per il momento, insomma, in maniera frammentaria, come facciamo da queste parti, insomma, e così vi rimanda appunto un divenire, un futuro, perlomeno insomma quello è quello che cerchiamo di fare, è proprio questo, e un cerchio che si chiude per poi riaprirsi, insomma, in mille altri cerchi, appunto, quasi a creare una forma spiralica infinita, vedremo. E sicuramente la musica sperimentale, ecco, in questo senso hanno una indeterminatezza e quindi un'infinità propria. E per concludere, ecco Plez, così una sorta di elettronica che recupera in maniera anche così paradossale quasi un armamentario o quasi un suono di così cartocciamento, di quasi di recupero di strumentazioni andata male, queste sintonie, queste frequenze che riprendono tanto da un certo sperimentalismo industrial nel disco di Echo Plez and Fidelity uscito da poco. Trovate pezzi che sono dedicati a Robert Rentmal, storico e meraviglioso sperimentatore vicino all'industrial, ma un suono assolutamente futuristico, con Thomas Lear stupendo, The Bridge da recuperare, e momenti, insomma, quindi che si rifanno tanto a quella utopia sonora futurista, quanto a nuove forme di ambient, però dentro grandi spazi dabbati, come forse anche a ridefinire un'immagine sonora di un forse post dubstep, quello che accennavo prima, ma veramente molto alla larga. Io vi saluto, vi rimando a mercoledì prossimo, quindi Max Mac, insomma, vi augura una buona settimana, non in nostra compagnia, non in compagnia di 451, ma torneremo, state tranquilli, siamo qua. Ciao e alla prossima.